Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, faccio ancora in tempo a dirvi buona Pasqua, naturalmente domani Pasquetta casalinga. Se proprio volete mettere il naso fuori di casa, vi segnalo due libri che vi porteranno in mete inaspettate. Il primo libro è quello di un noto storico dell'arte, Claudio Strinati, che è stato anche sovrintendente al Polo Museale Romano, nonché organizzatore di mostre importanti e adesso autore di Il Giardino dell'Arte, il romanzo di un viaggio fra le Meraviglie d'Italia, pubblicato da Salani, 700 pagine, 19,80 euro. Il libro si basa su un'idea semplice ma brillante, quella di raccontare le peripezie italiane di un giovane canadese, David, che ha ricevuto in premio dalla nonna un viaggio in Italia, che egli affronta facendosi guidare e seguire a distanza dal suo maestro, che gli consiglia gli itinerari e gli illustra i capolavori davanti ai quali lo conduce. David visita tutta l'Italia praticamente sotto l'impressione di quanto un misterioso compagno di viaggi gli aveva detto in una conversazione durante il viaggio d'andata, cioè che l'arte figurativa non è rappresentazione ma trasformazione. E gli farà eco il suo maestro nella mail che David riceve al suo arrivo in Italia, nella quale il professore illustra lo spirito con cui affrontare il viaggio riassunto in questo messaggio. L'anima, a cosa serve se non a pensare? La cognizione dell'arte è un valido aiuto a far ragionare la nostra anima e quindi a renderla viva e attiva. L'anima si deve muovere, deve agire, non può essere inerte. Solo così vivrà veramente e ci darà soddisfazioni immense, tra cui la forza dell'amore equamente distribuita tra corpo e anima. Capire la bellezza è una funzione dell'anima. E il viaggio sarà per David una fonte inesauribile di spunti, non solo artistici, ma anche storici e letterari, di suggestioni, di scoperte. Per esempio quella di un grande artista, di cui abbiamo ricordato forse in sordina nei giorni scorsi il 250esimo anniversario della morte, il grande Giovan Battista Tiepolo, che David scopre negli affreschi del Palazzo Patriarcale di Udine, introdotti in queste righe. Tiepolo è la felicità fatta pittura. Nel Palazzo Dolfina di Udine ha affrescato varie sale da giovane con risultati commoventi e bellissimi, vera scuola del mondo. Nel Palazzo Arcivescovile comincia a dipingere nel 1726, finisce il lavoro, piuttosto vasto, un paio d'anni dopo. Quello che conta è la verve e l'intelligenza figurativa. Sono storie bibliche, ma l'argomento è la curiosità delle persone, l'umanizzazione della storia sacra, la descrizione dei più elementari sentimenti e delle più segrete aspirazioni dell'essere umano. Un grande poeta che dipinge e conferma una sentenza che ben definisce il mestiere del poeta. Il poeta è colui che, quando parla di un argomento, parla d'altro. L'altro libro che ci fa scoprire o riscoprire luoghi e in questo caso personaggi è quello di Giuseppe Marcenaro, Passaporti, pubblicato dal Saggiatore, 178 pagine, 23 euro. Un viaggio esoterico, recita il sottotitolo, un libro per iniziati, un libro dai risvolti oscuri, per i fantasmi cui dà voce, i luoghi che visita, la trasognata indeterminatezza temporale degli scatti fotografici che accompagnano il testo e che assumono un significato particolare che troviamo riassunto in queste righe. La gran passione per le emozioni prese il viaggiatore e si sciolse nelle immagini. Aveva il suo taccuino per gli appunti e si accorse che scriveva soltanto con la macchina fotografica. Ingordo com'era, non si accorse che il registratore di cose era proprio lui. Ebbe in quel punto la misura dell'inutilità della descrizione e si convinse che il segno deve essere contemplato, mai svelato né capito. Ne esce un libro affascinante che ci porta in Italia da Genova all'Isola d'Elba, a Monterosso, a Taranto, a Trieste e poi ad Alessandria d'Egitto, all'Algeria, a Berlino, a Tirana, a San Pietroburgo e altri luoghi, tutti posti di cui scopriremo aspetti inaspettati e soprattutto scrittori noti e meno noti come Puskin, Foucault, Guibert, Jonnet. Nella descrizione dei luoghi troveremo storie incredibili come quella dell'avventuriero tedesco che si fa proclamare fortunosamente re d'Albania nel 1913, non rinuncerà mai al titolo e sarà addirittura candidato alle elezioni presidenziali tedesche del 1932. O quella ancora più sorprendente del dentista ungherese che decide di andare a praticare in Puglia e scopre gli ori antichi di Taranto che i contadini trovano nei campi e gli portano perché utilizzi quell'oro per ricavarne delle capsule per i denti cariati. O ancora gli intrecci sulle carte di Walter Benjamin che portano a una villa di Sanremo trasformata in pensione. E poi artisti e poeti, magari in coppia, come due giganti del Novecento, Italo Svevo, pseudonimo come noto di Ettore Schmitz, e James Joyce, che a Trieste insegna l'inglese e dà lezioni anche allo scrittore italiano, dopo un incontro che viene presentato in queste righe. Ettore Schmitz, con circospetta timidezza, a un certo punto aveva confessato al suo insegnante di inglese, che lo sapeva scrittore, il vizio segreto, passandogli due libri stampati in proprio. Erano Senilità e Una vita. E quel gesto fu scintilla di un fatto raro e misterioso che finalmente sconvolse la vita di uno scrittore rassegnato al silenzio e all'anonimato. Un artista riconobbe un altro artista. Joyce segnala l'opera di Svevo, che intanto sta scrivendo La coscienza di Zeno, ai francesi Larbaud e Crémieux. Svevo è tradotto in Francia. Poi, finalmente, per merito di Sergio Sulmi, Eugenio Montale e Roberto Baslen, anche gli italiani si accorgono dello scrittore triestino. Un irlandese 25enne aveva scoperto il talento dell'allievo 46enne. Avvenne in una stanza della villa di Servola, di proprietà dei genitori di Livia, sposa di Ettore Schmitz, impegnato nell'azienda familiare. Svevo confessò il misfatto. «Anch'io sono uno scrittore». L'insegnante di inglese aveva letto ai suoi amici The Dead, l'ultimo racconto dell'ancora inedito Dubliners. Livia, emozionata, raccolse nel giardino alcune rose e le offrì a Joyce. L'omaggio fu ricambiato. Diventerà Anna Livia Plurabel in Finnegan's Wake. Ed è Finnegan's Wake, l'opera finale più complessa, per molti illeggibile, di James Joyce. Sta pubblicando il testo integrale con quello inglese a fronte, la traduzione di Enrico Terrinoni e Fabio Pedone, Mondadori. Sono usciti 6 volumi, il cui prezzo varia fra i 13 e i 24 euro. Mentre di Svevo, le edizioni più recenti sono per Senilità quella di Mondadori, 208 pagine, 10 euro, per La coscienza di Zeno, quelle di Ali Ribelli Edizioni 14 euro, di Primiceri 15 euro, di Unicopli 19 euro e poi di Una vita c'è l'edizione Mondadori 352 pagine 11 euro. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943, Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino, il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchese, vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia, ogni venerdì in podcast su radio24.it. Un libro tira l'altro. Come suggerimento per la quarantena vi trasmetto il messaggio lanciato pochi giorni fa da un noto scrittore svizzero, Alain de Botton, noto anche in Italia per i suoi libri di divulgazione filosofica, tutti pubblicati da Guande. I più recenti sono Come Proust può cambiarvi la vita, 196 pagine, 11 euro, tradotto da Livia Ferrari, Il corso dell'amore, che è un romanzo su come reimparare ad amarsi, 252 pagine, 12 euro, tradotto da Elisa Banfi, Le consolazioni della filosofia, che ci presenta 6 pensatori classici in grado di parlarci ancora oggi, 278 pagine, 14 euro, tradotto da Anna Rusconi. Qualche giorno fa De Botton sul Financial Times ha offerto le sue riflessioni su come affrontare il lockdown, il confine al quale ormai in tanti siamo costretti sul pianeta. E De Botton raccomandava qui di recuperare il senso della propria esistenza, riscoprendo la capacità di riflettere sullo straordinario patrimonio di ricordi, di sensazioni, di emozioni che ciascuno di noi possiede. Perché lamentarci di non poter viaggiare se abbiamo tanti viaggi nella nostra mente che potremmo rivivere e ricostruire, magari senza farci appesantire da quei bagagli che ingombrano il nostro essere noi stessi? Bagagli quali, come li enumera l'autore, l'ansietà, il dispiacere, la confusione, la colpa, l'irritabilità e la disperazione. De Botton qui cita un'opera che anch'io volevo trovare il modo di segnalarvi, cioè Il viaggio intorno alla mia camera, che Xavier de Maistre scrisse nel 1790, a 27 anni, quando fu condannato a 42 giorni di arresti domiciliari, che egli utilizzò per questo viaggio nella camera dove era stato confinato per esprimere le proprie sensazioni e riflessioni. De Maistre, dice De Botton, colse un aspetto importante, che il piacere che troviamo in posti nuovi dipende forse più dall'atteggiamento col quale viaggiamo che non dalla meta. Se potessimo adottare lo stesso atteggiamento alle nostre stanze e alle immediate vicinanze, potremmo forse vedere che questi posti possono diventare non meno affascinanti che mete esotiche. E in che cosa consiste questo atteggiamento? In quello che si basa su apertura, apprezzamento e gratitudine. E allora una passeggiata di pochi minuti ci può apparire, rispetto a un lungo viaggio, come, dice De Botton, un bonsai rispetto a una foresta, ma può diventare già un viaggio nel quale sono presenti molti dei grandi temi di un viaggio vero, a partire dalla capacità di cogliere la bellezza, per esempio, di un fiore. E allora, dal libro di De Maistre, vi offro queste riflessioni ispirate all'autore dalla tappa che gli compie nel cassetto delle lettere, tappa nella quale troveremo sicuramente molti spunti di attualità. Quando metto mano in questo cantuccio, è raro che me ne stacchi per tutta la giornata. Proprio come fa il viaggiatore, che attraversa di corsa qualche provincia italiana, facendo in fretta delle visite superficiali, per fermarsi poi a Roma per mesi interi. È la vena più ricca della miniera che sfrutto. Quanti cambiamenti nelle mie idee e nei miei sentimenti. Che differenza tra i miei amici. Quando li paragono tra come erano e come sono, li vedo superlativamente agitati da progetti che oggi non li interessano più. Consideravamo un certo avvenimento come una grande sventura, ma la fine della lettera manca. E l'avvenimento è completamente dimenticato. Non posso sapere di che si trattava. Ci preoccupavano allora mille pregiudizi. Il mondo e gli uomini ci erano completamente ignoti. Tuttavia, che passione nei nostri rapporti, che profonda amicizia, che illimitata fiducia. Eravamo felici per i nostri errori. E adesso? Non è più così. Anche noi, come tutti gli altri, abbiamo dovuto leggere nel cuore umano. E la verità, cadendo in mezzo a noi come una bomba, ha distrutto per sempre l'incantato palazzo dell'illusione. Queste righe erano tratte da una vecchia edizione del 1958 delle Edizioni Paoline, tradotte da Gennaro Auletta. La più recente edizione in Italia è quella dell'editore La Grande Illusione di Pavia e si intitola Il Giro della Stanza, 120 pagine, tradotto da Flavio Santi, un'edizione in 800 esemplari che costa 17,50 euro. E poi c'è anche un'edizione in lingua originale di Trieste Publishing, la casa editrice specializzata nel rieditare grandi classici da riscoprire in edizioni attentamente controllate per garantire l'eccellenza dei testi originali. 116 pagine, 13,99 euro. Ancora più recente è la traduzione di Gianluigi Saraceni, che pubblica Tarca, 128 pagine, 12,50 euro, che ha anche una prefazione illustre, quella del grande Anatole France. Un altro libro al quale possiamo utilmente riaccostarci in questo periodo, magari per aprirlo a caso e leggere qualche novella qua e là, è naturalmente Le Mille e una Notte, uno dei vertici della civiltà letteraria arabo-orientale, dove una giovane Scheherazade salva se stessa dalla pena capitale con la propria capacità di inventare storie, di raccontare e di incantare. l'edizione più recente è quella di Mondadori, 1164 pagine, 15 euro, curata da Hafez Haidar. Poi c'è un'edizione per bambini di Gribaudo, Le più belle storie delle mille e una notte, di Fulvia degli Innocenti, illustrata da Giulia Rossi, 190 pagine, 12,90 euro. Naturalmente in questo periodo sono molto gettonati i libri pestiferi, a parte il Decamerone va molto forte per esempio La peste di Albert Camus, uno dei più celebri romanzi del Novecento, nel quale la pestilenza esplosa a Orano simboleggia il fascismo e il libro mette a nudo le difficoltà e le contraddittorietà della condizione umana. È pubblicato da Bompiani, 336 pagine, 13 euro, con la traduzione di Jasmine Melawa. Un altro libro che sta vendendo molto è The Stand di Stephen King, che in Italia è stato tradotto con il titolo L'ombra dello scorpione, la traduzione di Bruno Amato e Adriana Dell'Orto. È pubblicato anche questo da Bompiani, 1376 pagine, 15 euro, dove il contagio per la fuga di un virus da un laboratorio arriva a distruggere il 99% della popolazione mondiale, costringendo i sopravvissuti a una guerra durissima per ripartire. E io vi voglio segnalare di Daniel Defoe, lo scrittore inglese, padre del romanzo inglese, autore di Robinson Crusoe, Il diario dell'anno della peste. È pubblicato da Eliot, tradotto da Antonietta Mercanti, 198 pagine, 17,50 euro. Trovate questo testo anche all'interno del volume dedicato a Defoe nella collana dei Meridiani, con la traduzione di Giorgio De Rigo, 1074 pagine, 80 euro. In questo libro del 1722, che Defoe scrisse come al solito per far soldi, troviamo un narratore che è lo zio dello scrittore, che racconta la peste di Londra del 1665 alla quale egli era sopravvissuto. Il libro è modernissimo e mixa cronaca giornalistica di prim'ordine, documentazione statistica, dati ed emozioni letterarie, illustrando l'avanzare del morbo, le misure prese, l'incertezza della popolazione, gli sbagli che vennero commessi, le contraddizioni della politica e anche il costo della non informazione. Una pagina modernissima di cui vi propongo alcune righe. In quei giorni non avevamo giornali stampati che diffondessero voci e notizie sugli avvenimenti e le ampliassero con l'inventiva propria degli uomini, come vissi poi abbastanza per veder fare in seguito. Ma fatti del genere erano spigolati dalle lettere dei mercanti e da altri che tenevano corrispondenza con l'estero, e ciò veniva propalato da essi solo verbalmente, cosicché le notizie degli avvenimenti non si diffondevano subito per tutta la nazione, come adesso. Pare tuttavia che il governo avesse ragguaglio esatto di tutto ciò, e si tennero diverse riunioni circa le misure a cui ricorrere per impedire all'epidemia di giungere sin qui. Ma tutto fu tenuto ben segreto. Accadde quindi che la voce a poco si estinse e la gente cominciò a scordarsene, come di cosa che ci riguardava ben poco e che noi speravamo non fosse vera. E ciò fino alla fine del novembre o all'inizio del dicembre 1664, quando due uomini, che si diceva fossero francesi, morirono di peste a Longacre. E mette a confronto la descrizione della peste da parte di Defoe con quella di Manzoni nei Promessi Sposi il libro La peste letteraria, Milano 1630, Londra 1665, pubblicato dalla Vita Felice, 188 pagine, 13,50 euro, nel quale troviamo appunto le pagine dei due scrittori relative alla peste che ciascuno di essi descrive. E il classico di oggi ci viene proposto da Laura Lepri, scrittrice nonché direttore del Circolo dei Lettori di Milano. Il mattone. La Certosa di Parma di Stendhal è stata scritta nel 1838, in 52 giorni di autoreclusione. Sono 500 pagine che il grafomane Stendhal forse detta a un bravo copista, l'unico ammesso nella sua dimora parigina, avendo fatto dire dai domestici che il signore era a caccia. Stendhal è nato nel 1783 a Grenoble e muore nel 1842, quindi La Certosa è l'ultimo capolavoro, forse il più grande, anche se non dobbiamo dimenticare Il rosso e il nero. Ma l'aggettivo grande torna molto pertinente e ricorre perché, ad esempio, a detta di Italo Calvino, nella Certosa di Parma prende vita il più bel personaggio femminile della letteratura italiana. Ed è un bel paradosso, anche se è verosimile. Come tutti sanno, infatti, la vicenda della Certosa è ambientata tutta in Italia, fra una realissima Milano con i suoi caffè, le serate alla Scala, e un'immaginaria Parma, che è il luogo in cui il passato resiste, l'ancien regime, il potere assoluto, gli intrighi della corte. E Dio sa quanto Stendhal abbia amato Milano, al punto che sulla sua tomba ha voluto che fosse scritto: qui giace Henri Bell, milanese. Ma ha voluto che fosse scritto anche: rispettò un solo uomo, Napoleone. E infatti l'attacco della Certosa di Parma è molto eloquente in questo senso, perché recita: il 15 maggio 1796 il generale Bonaparte entrò a Milano alla testa del giovane esercito che aveva passato il ponte di Lodi e mostrato al mondo come dopo tanti secoli Cesare e Alessandro avessero un suo successore. Napoleone, peraltro, è in qualche modo un personaggio della Certosa, perché il protagonista, uno dei protagonisti, dei personaggi più importanti, insomma il protagonista, Fabrizio Del Dongo, segue Napoleone fino a Waterloo, anche se non riuscirà nel clamore della battaglia nemmeno a vederlo. Fabrizio Del Dongo è un giovane di belle speranze e dalla vita appunto molto avventurosa, ed è amato dalla duchessa Sanseverina, appunto il più grande personaggio femminile della letteratura italiana, francese in realtà ovviamente, che ama Fabrizio Del Dongo, la sua gioventù, il suo essere un animo inquieto, ma trova tuttavia rassicurazione affettiva e sociale in un altro magnifico personaggio, vale a dire nel conte Mosca, che è il potente ministro degli interni del Granducato di Parma. Certo, c'è anche la giovane Clelia, che è un personaggio intenso di cui Fabrizio si innamora quando sarà prigioniera nel carcere della Certosa e che incarna l'amore romantico. È un personaggio, se posso dire, forse un po' piagnucoloso, ma intenso nel suo amore e nella sua dedizione nei confronti di Fabrizio. La Sanseverina invece è la passione, l'irruenza, il desiderio di potere, anche di potere sociale, e il desiderio di sfidare il potere, persino disposta a perderlo. Ma io concluderei con le parole con cui Stendhal la ritrae, che sono le seguenti: la duchessa, sempre passionale in tutto, sempre interessata a qualcosa, mai oziosa, mai annoiata, aveva più intelligenza di tutta la corte di Parma, ma non possedeva la pazienza e il sangue freddo indispensabili per resistere con successo agli intrighi della corte. La Certosa di Parma insegna anche ad avere pazienza. Naturalmente non diventeremo mai personaggi affascinanti e seducenti come la Sanseverina, però forse impareremo alcune regole della vita reale. La Certosa di Parma la troviamo in varie edizioni: c'è quella di Garzanti tradotta da Emilio Tadini, 10 euro, quella di Einaudi tradotta da Camillo Sbarbaro, 12,50 euro, quella di Feltrinelli tradotta da Gianni Celati, 11 euro, quella di Mondadori Fuori, tradotta da Maurizio Cucchi, 11 euro, e poi un'edizione in caratteri grandi di Marco Valerio, 39 euro. E vi segnalo anche uno scritto di Balzac, Gli studi su Stendhal e la Certosa di Parma, con testo originale e traduzione di Pino Lo Bianco, per La vita felice, 216 pagine, 13,50 euro. Prima di salutarci ricordiamo un grande scrittore di cui domani ricorre il 20° anniversario della scomparsa, Giorgio Bassani, di cui escono le poesie complete curate da Anna Dolfi per Feltrinelli. Credo che il libro esca per ora in formato elettronico, costa 14,99 euro, e ci fa scoprire un aspetto non secondario rispetto all'opera narrativa di Bassani. Le poesie ci vengono presentate con un apparato che consente di riscoprire come andrebbe fatto il grande autore del Giardino dei Finzi Contini. E con questo ringrazio Luca Cremonesi e redazione. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.